come andiamo, Daniel? Non lo so, perché proviamo lì, vediamo un po' come la situation, perché alla fine non so come funziona la cosa, non lo stava spiegando. Comunque, per quanto riguarda il guardia urbano non c'è niente, è tutto ambulanze e coso, e vabbè, assistenza, dai. Vediamo Daniel, non lo so, lui mi ha detto che stanno chiamando tante persone, sono tante, sicuramente fanno bisogno per quanto riguarda questo tipo di lavoro. Chiamano come voi, se è un lavoro, qui su di voi. Magari di più, perché noto che in giro c'è un po' di insomma, di quelli della guardia non passano dappertutto, per esempio ho detto dietro casa, le scuole, un esempio, è da tagliare, da pulire, basta metterle lì, si fa, perché è uno schifo, se tu vedi l'erba è più alta dei cancelli. Bisogna andare, è utile, la gente, io non ci vado, c'è chi non prende, che non prendono, le persone che magari hanno problemi di salute, capito? Non ci va, non li prendono quelli. Oppure di una certa età, così mi stava spiegando l'assistente. Poi non lo so, Daniel. Non lo usaccio, mi sto. Dovevo riparare un computer, mi interruga, va. Ecco qua, così. E niente. Tu da quando hai iniziato, Daniel? A ottobre? Cosa ho dovuto fare, Daniele? lì in Dante, ho preso lo sportello del furgone e pisciare, che non me la faccio più, non mi ha mandato a pisciare. La faccia del tuo si abbonda, abbonda. Come ha portato il tuo problema a me, lui? Non ha mai cambiato niente. Anche dove è stato l'architetto della ragazza, ha lavorato il 32 anni, ma non fa una posta, l'ha fatto. Io l'anno scorso, però si vedeva a buon casino. Gloria, per carità. Poi ho acceso il computer di Claudio, c'è questo Iaiso, quello, cavolo. Quella radio. Si fa il massetto e poi si fa, come si chiama? Come cioè fanno la pastetta, no? Col cemento, e si fa così. E poi quando si fa, comunque con la roba col cemento, no? Liquido, e si butta. Vabbè, si fa lo spolvero prima, cazzo vuol con latte, non ci credo. Però di te, non si è, no? Questo è l'architetto. Anche l'architetto, perché già pensavate che vuoi colare con latte. Ma non ti dicevo il collante, non è il servizio. Vabbè, ciò vuoi fare. Ma le hanno studiato a quello di scimmia. Io per carità, per carità, manicomio. Vabbè, la futtidina di anni tu travagli e frega, che ogni mese ti hanno i soldi, se te ne frega. Ti fai i soldi per Natale, poi ti fa la disoccupazione, che se no fotti. E infatti, ma che per te lo vedi? No, guarda. Che pensa? E guarda. Ma per l'Ucraina, dai, io ti chiamo qualche cosa da sotto, che fai la caricetta. Te lo spettiamo le prossime. Ehi, saluti a tutti, ciao Daniele, alla prossima, ciao ciao, buonanotte. Ehi, hanno proprio